Perfetto Giorno di Simone Spezia. La Consob sulle quattro banche salvate dal governo difende l'operato della vigilanza. Quando si perde la partita non è sempre colpa dell'arbitro. 13 arrestati e 7 sanzionati a Foggia tra i dipendenti del comune. A turni timbrava uno per tutti. Contro la riforma della prescrizione annunciano sciopero gli avvocati penalisti. Allungherà i tempi del processo, dicono. La Grecia via libera la nuova ondata di austerità. Nel pomeriggio l'Eurogruppo che deciderà sugli aiuti. 4 anni di squalifica per Michel Platini. Nel giro di una settimana dovrebbe lasciare la presidenza dell'UEFA. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, il punto metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms, per i vostri messaggi su WhatsApp, e se volete qualche anticipazione sulla trasmissione nell'arco della mattinata e non solo quello, c'è il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno. In apertura dunque la relazione annuale della Consob. Ha seguito i lavori e la presentazione Livia Zancaner. Buongiorno Livia. Buongiorno Simone. Vai. Allora, le banche sono state al centro del discorso di Giuseppe Vegas, presidente della Consob al mercato, in particolare la nuova direttiva europea sul bail-in e il salvataggio delle quattro banche da parte del governo. Fattori che hanno spinto la fiducia dei risparmiatori come mai era successo nel dopoguerra, ha detto Vegas. Molti infatti ricordano visto azzerare il valore di azioni e obbligazioni subordinate in cui avevano investito. La Consob dunque dà 3 soluzioni, o meglio 3 raccomandazioni sul collocamento di prodotti finanziari a retail. Il primo, inserire nei prospetti, che sono troppo lunghi e complessi, ha detto Vegas, un capitolo avvertenze in cui sintetizzare i rischi, realizzare una scheda prodotto con informazioni chiave da dare ai clienti, come chiesto peraltro più volte in più sedi dal Sole 24 Ore, distribuire gli strumenti finanziari non allo sportello ma su mercati ad hoc. Molti però, ricordiamo, hanno criticato nei mesi passati le autorità di aver vigilato poco. Abbiamo chiesto a Vegas come sarà possibile in futuro evitare casi di questo tipo. Sentiamo. Le dirò che per un risparmiatore attento si sarebbe potuto evitare già i casi presenti. Le autorità sono davanti a una sfida ancora più sfidante di prima e quindi stanno moltiplicando le iniziative. Noi abbiamo messo in cantiere tutta una serie di nuove iniziative che nell'ambito di ciò che ci è permesso dalla legislazione europea potranno aumentare il controllo e quindi la tutela del risparmiatore. Però a volte non è che quando uno perde una partita dà sempre la colpa all'arbitro, a volte dipende anche dai giocatori. Noi siamo qui per dare fiducia ai risparmiatori italiani, ma il valore delle istituzioni va salvaguardato, ha concluso Vegas. Ed è tutto a te, Simone. E grazie a Livia Zancaner per questo aggiornamento. Riparte la discussione sulle unioni civili in Parlamento, ma il governo ricorrerà alla fiducia. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, provvedimento sulle unioni civili che arriva oggi in aula alla Camera, obiettivo di governo e maggioranza, approvarlo entro giovedì. I tempi dovrebbero essere questi, Simone, anche perché, come annunciato dal Presidente del Consiglio Renzi, Palazzo Chigi metterà la fiducia. L'esecutivo vuole evitare sorprese, nonostante la Camera possa contare su un'ampia maggioranza. I temi etici, tuttavia, esperienza insegna, creano fronti trasversali difficilmente controllabili. La prima prova sulla tenuta della maggioranza si avrà comunque domani mattina con il voto sulla questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dalla Lega. 2 i capitoli sui quali poi il governo non vuole rischiare che la stepchild adoption possa essere reinserita e che passi l'emendamento che prevede che i sindaci possano esercitare l'obiezione di coscienza e dunque non celebrare le unioni civili. Altro fronte di tensione per l'esecutivo e per il premier quello del Ministero dello Sviluppo Economico. L'interim di Renzi è alle battute finali. Lo stesso premier ha annunciato che a ricoprire l'incarico sarà Carlo Calenda. Domani pomeriggio il giuramento al Quirinale. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Chiuse ieri intanto le liste per le amministrative, non senza polemiche e problemi, mentre a Bolzano si è già votato per il primo turno. Errori nella compilazione dei moduli, firme e date di nascita mancanti, vizi formali non sanabili per la commissione elettorale. Il risultato per ora è la clamorosa esclusione di Stefano Fassina dalla corsa per il Campidoglio. Sul suo ricorso potrebbe arrivare il verdetto del TAR già nel fine settimana, ma se l'esclusione dovesse essere confermata si altererebbero gli equilibri della competizione elettorale nella capitale. La mia porta nei confronti degli elettori di sinistra è sempre aperta, si affretta a dichiarare Roberto Giachetti, ma secondo Marchini, il candidato sindaco del PD, non sarebbe avvantaggiato dall'assenza del leader di sinistra italiana. A rischio anche altre liste, a Cosenza due civiche di appoggio NCD e PDL. Escluse a Milano la lista di Fratelli d'Italia a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Stefano Parisi e la Fucsia People, unica a candidare una donna sindaco. E a Milano ieri Berlusconi, presentando le liste azzurre per le comunali, ha rilanciato l'asse del centrodestra in vista delle politiche, tentando di ricucire dopo lo strappo delle candidature a Roma con Fratelli d'Italia e Lega. Abbiamo già una distribuzione dei ministeri, frenano però i diretti interessati. E intanto le elezioni comunali sono già cominciate a Bolzano, dove sarà ballottaggio il 22 maggio tra il candidato del PD Renzo Caramaschi e Mario Tagnin del centrodestra. In forte salita Movimento 5 Stelle e Casa Pound. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Siamo a Foggia per la nuova indagine sull'assenteismo. Un perfetto lavoro di squadra, quello che avrebbe permesso a 20 dipendenti del comune di Foggia di assentarsi dall'ufficio. Il colonnello dei carabinieri Antonio Basilicata ci spiega il meccanismo della truffa. Un giro un po' vizioso, tutti facevano tutto, non c'è qualcuno che facesse per altri sempre. Quando c'era bisogno, chi doveva assentarsi prestava probabilmente il badge all'altro che la mattina passava il badge a posto suo. 13 dipendenti sono ora agli arresti domiciliari, per gli altri 7 è scattata la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici. L'ipotesi di reato è truffa ai danni dello Stato. Gli indagati si erano accorti della presenza delle telecamere nascoste e avevano cercato di manometterle con il manico della scopa. Ma era ormai troppo tardi. Nel 2010 un episodio analogo portò all'arresto di 3 persone. Dania Di Bitonto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora il tema di tra politica e giustizia al centro della scena. Interrogatorio in carcere oggi per il sindaco di Lodi, mentre prosegue lo scontro tra politica e magistratura. I penalisti annunciano uno sciopero. Raffaella Calandra, buongiorno, e iniziamo proprio dall'interrogatorio di Uggetti. Raffaella. Sì Simone, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Per 2 ore il sindaco di Lodi Simone Uggetti della PD ha risposto alle domande del PM Laura Siani nella carcere milanese di San Vittore, confermando quello che era stata la sua linea, cioè la sua intenzione di collaborare con la magistratura. All'uscita i suoi avvocati, compreso il nuovo avvocato, il professor Mucciarelli, che aveva già difeso un altro lodigiano eccellente, Giampiero Fiorani, non hanno voluto dare indicazioni su quanto emerso nell'interrogatorio, se non la conferma della collaborazione. Di sicuro da questo incontro di oggi dipendeva anche la scelta della difesa di presentare ricorso al Tribunale del Riesame di Milano per chiedere la scarcerazione. Comunque Uggetti ha già nell'insieme ammesso alcune delle contestazioni che gli vengono fatte in merito all'accusa di turbativa d'asta. Staremo a vedere se emergeranno, diciamo, degli aspetti anche più nel merito delle sue dichiarazioni fatte al PM, che però poi si è spostata a Lodi per l'interrogatorio dell'altro indagato arrestato, l'avvocato Marini. Simone. Questo per quanto riguarda appunto la cronaca strettamente giudiziaria. Per quanto riguarda invece i rapporti tra politica e giustizia, tra politica e magistratura, e non solo, ci sono novità anche oggi, no? Sì, di sicuro oggi inizia una settimana a dir poco assai delicata nei temi della giustizia e in questi clima di rinnovata scontro con la politica. Oggi è previsto un incontro tra il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini e il capo dello Stato Sergio Mattarella, forse dopo la partecipazione dei due alle commemorazioni in ricordo delle vittime e del terrorismo e della mafia. Un incontro su cui il Quirinale vuole però non si marchi troppo l'attenzione, perché non sembri connotato da un aspetto di eccezionalità dettato dal momento effettivamente critico. E d'altra parte i contatti telefonici tra i vertici del CSM sono stati frequenti in questa settimana, che ha visto esplodere soprattutto il tema della condotta delle toghe e della loro presa di posizione rispetto al dibattito politico pubblico e nello specifico rispetto al referendum costituzionale di ottobre. Si profila un codice deontologico per i membri del CSM, mentre in seno alla magistratura sono fioriti dibattiti e le prese di posizioni su un fronte o sull'altro. Domani poi si riunirà anche la giunta dell'ANM, il sindacato delle toghe, e prenderà probabilmente una posizione anche su questo, prima che la rilevanza istituzionale assunta soprattutto dall'intervista smentita del togato del CSM Morosini diventi il tema dell'incontro, forse mercoledì, tra il guardasigilli Orlando e il vicepresidente presidente del CSM Legnini. Simona. E grazie Raffaella Candra per questo aggiornamento. A tutto ciò si aggiunge anche la voce dei penalisti italiani che oggi hanno annunciato uno sciopero per 3 giorni, dal 24 al 26 maggio, contro una riforma della prescrizione che dicono non accorcia ma allunga i tempi del processo. Lo sciopero è anche contro le attuali norme sulle intercettazioni che non garantiscono la riservatezza, scrive l'Unione delle Camere Penali, e la riforma asistematica del processo penale. Andiamo in Grecia per il via libera, le nuove riforme e l'Eurogruppo di oggi. La nuova austerità che si riverserà sui greci è stata approvata nella notte. Governo e opposizioni hanno atteso che Piazza Sindagma si svuotasse, che gli scontri comunque contenuti si placassero. È passato l'ennesimo taglio sulle pensioni e la riforma fiscale, in pratica nuove tasse. Misure per 5,4 miliardi da offrire sul tavolo dell'Eurogruppo. La Grecia si reggerà in piedi da sola ad ogni costo, ha dichiarato Tsipras nell'estremo tentativo di ottenere soldi per allontanare lo spettro del fallimento. Il ministro delle Finanze Tsakalotos si presenterà a Bruxelles portando anche un accordo preliminare sul fondo per le privatizzazioni e sui crediti deteriorati. A dire il vero, su quest'ultima voce l'accordo con i creditori era già stato raggiunto. La maggior parte dei crediti in sofferenza in Grecia riguarda i mutui sulla prima casa, una voce più che sensibile. Ci sarebbe anche un accordo di massima sui meccanismi automatici da far scattare nel caso in cui Atene non raggiunga i target fissati, il 3,5% di avanzo primario nel 2018. Ed è qui che si gioca la vera partita. Il fondo monetario, che ha minacciato più volte di abbandonare i negoziati non ritenendo credibile l'obiettivo, vuole da Atene tagli preventivi o la ristrutturazione del debito. Dall'altro capo del tavolo c'è l'Europa e in prima fila la Germania, che di taglio del debito non vorrebbe proprio sentire parlare. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è in questo clima che si celebra la festa dell'Europa oggi. Today we celebrate the United Europe. Oggi celebriamo l'Europa unita sorta dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, dice il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk in occasione della festa dell'Europa che ricorre oggi il 9 maggio, data che ricorda la dichiarazione con cui l'allora ministro francese degli esteri Robert Schuman nel 1950, oltre 65 anni fa, proponeva la creazione di una comunità europea del carbone e dell'acciaio. Porte aperte oggi per le sedi di Bruxelles e Lussemburgo, manifestazioni negli uffici locali in Europa e nel mondo. Oggi l'appello per una tabella di marcia dell'Europa, firmato da scrittori e alti funzionari europei, tra gli italiani Roberto Saviano e Mercedes Bresso, per rilanciare, oltre i muri e ai frontiere chiuse, l'Unione Europea. Al sesto punto, un Erasmus allargato per crescere cittadini europei, come le 13 ragazze vittime del tragico incidente in Spagna, avvenuto poco più di un mese fa, che si sentivano europee e per questo a loro saranno intitolate 13 borse di studio per garantire la continuità dei valori senza frontiere promossi dal programma Erasmus. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. La Russia è pronta a lavorare ad un moderno sistema di sicurezza non basato su blocchi contrapposti. Sono parole di Vladimir Putin durante la parata a Mosca per il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. A seguire le celebrazioni invece a Volgograd, l'ex Stalingrado, c'è Gigi Donelli. Gigi, buongiorno. Sì, Simone, buongiorno. Questo è davvero uno dei luoghi simbolo. Siamo ai piedi della grande statua della madre patria russa, un colosso in cemento di oltre 90 metri con vista sulla città, appunto, diciamo, di Stalingrado, oggi Volgograd. Qui nel mezzo di questa festa, davvero una festa che coinvolge qui centinaia di migliaia di persone, ma sicuramente nella Russia sono milioni di persone, perché questa è diventata la festa anche della famiglia, del figlio, e naturalmente anche con una serie di considerazioni, riflessioni sulle distanze che purtroppo accrescono progressivamente tra l'Europa e il mondo russo e le reciproche incomprensioni. Comunque oggi grande giornata di festa, peraltro baciata da un sole decisamente italiano. Volgograd dunque una delle capitali di questa grande celebrazione per gli eroi che hanno fermato, ricordiamolo qui, dopo 200 giorni d'assalto, le armate nazifasciste. Per ora da Volgograd è tutto. Ti ringrazio, grazie a Gigi Donelli. Notizia che riguarda ancora i temi dei colossi della Silicon Valley, il loro rapporto con le autorità americane in tema di privacy. Twitter, secondo il Wall Street Journal, ha rifiutato l'accesso delle agenzie di intelligence ad un servizio che si chiama Data Miner. È un servizio che passa al setaccio in tempo reale l'intera produzione dei messaggi sul social media e lancia alert in caso di attacchi terroristici o altri eventi rilevanti dal punto di vista politico. Prende il via oggi a Parma la 18ª edizione di Cibus, la fiera dell'alimentare italiano, un settore per il quale il governo si è prefissato un aumento dell'export che raggiunga i 50 miliardi di euro entro il 2020. Adriano Palazzolo a Parma ha chiesto al ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, presente all'inaugurazione, le strategie per raggiungere questo obiettivo. Continuare come abbiamo fatto fin qui con il piano straordinario per l'internazionalizzazione, dedicare risorse alle imprese agroalimentari, lavorare sulla formazione, sull'organizzazione, selezionare i mercati, concentrare le risorse anche pubbliche su mercati potenziali straordinari. Abbiamo visto tutti i numeri incredibili che abbiamo fatto ad esempio negli Stati Uniti in questi mesi. Noi siamo sostanzialmente in linea col nostro programma, nonostante alcuni problemi non banali. Pensate al blocco del mercato russo. Nonostante questo problema, noi abbiamo fatto il record dei 36,8 l'anno scorso e ci sono tutte le condizioni perché il 2016 sia un ottimo anno. Passiamo allo sport e al calcio, iniziando da questioni che riguardano la giustizia del calcio e in particolare la giustizia mondiale del calcio. La sentenza su Michel Platini che ha il TAS ha ridotto da 6 a 4 anni la squalifica, ma insomma l'uscita dalla UEFA è sostanzialmente automatica. Iniziamo da qua, Dario Ricci. Sì, buongiorno Simone. Michel Platini puntava all'assoluzione, no? Per quella vicenda che di fatto l'ha estromesso dalla corsa alla presidenza della FIFA e che è relativa, ormai insomma in pochi non lo sanno, a quei famigerati 2 milioni di euro che ricevette da Blatter per lavori e consulenze, ma la cui certificazione arrivò a distanza di una decina d'anni, quindi insomma con tempi quasi elefantiaci. Platini si era visto già in qualche modo ridurre queste accuse dalla commissione etica della stessa FIFA, aveva fatto ricorso al TAS che è l'ultima istanza, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna della giustizia sportiva, puntava ad una soluzione prima piena. Questi 4 anni chiaramente di fatto lo obbligano a prendere atto che questa soluzione non è arrivata e ad uscire dall'UEFA. E questo è il punto per quanto riguarda appunto la giustizia sportiva internazionale, mentre invece Dario, dal punto di vista dello sport e del fine settimana di sport, che cosa ci racconti? Beh, è una domenica che ha detto tantissimo, Simone, perché è stata la domenica che abbiamo intitolato qui a Radio 24 dei dominatori, perché in modo diverso però Jorge Lorenzo, Alex Schwarzer e Marcel Kittel sulle strade del Giro d'Italia, momentaneamente in trasferta in Olanda, oggi la carovana riposa perché sta proprio rientrando in Calabria per la prosecuzione della corsa, hanno vinto da dominatori le rispettive prove. C'è stata una Modena del volley che è tornata allo scudetto, il 23esimo del suo prestigiosissimo palmarès, e davvero quindi una domenica dalle emozioni forti, senza dimenticare, e noi due non potremmo farlo visto che siamo grandi appassionati, i playoff del basket che stanno entrando nel vivo. Ieri sera la vittoria di Milano su Trento, quella di Venezia a Cremona, e stasera si continua con gara 2 dei quarti, quindi stasera davanti al televisore, Simone. Ci saremo sicuramente, grazie Dario Ricci, e lo sport torna alle 14 con tutti convocati. Noi adesso andiamo al traffico e poi, come al solito, a partire dalla seconda parte della trasmissione inizieremo il nostro consueto, chiamiamolo così, Giro d'Italia, ma in questo caso evidentemente non ciclistico, ma con un po' di storie che abbiamo raccolto dal territorio. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della relazione della Consob e della difesa del presidente Vegas sul tema delle quattro banche. Abbiamo parlato degli arresti a Foggia tra i dipendenti del comune, i cosiddetti furbetti del cartellino. Abbiamo parlato dell'arrivo di una protesta dei penalisti contro la riforma della prescrizione. Abbiamo parlato di Grecia, abbiamo parlato di sport. Adesso, dato che è lunedì e quantomeno qua a Milano è brutto tempo, iniziamo questa settimana con una storia un po' più leggera, si fa per dire. Silvia Marchionini, sindaco di Verbania, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora, la vicenda è questa. Viene costruito a Verbania un nuovo teatro. È un teatro realizzato dall'architetto spagnolo Carlos Arroyo, una delle archistar, diciamo, di questo pianeta. Investimento da 18 milioni di euro, finito. È molto bello, andatevi a cercare le foto su internet e lo potete vedere. Ma succede questo. Viene organizzato un concerto di Francesco De Gregori per aprire, come dire, per inaugurare questo teatro, ma improvvisamente salta tutto per una banale questione di cachet, tra l'altro piuttosto basso, mi sembra di capire, Marchionini. Sì, no? Beh, faccio un passo indietro, nel senso che proprio la costruzione del teatro politicamente portò alle dimissioni del sindaco, quindi il comune venne commissariato, io poi sono stata eletta nel 2014 quando il teatro era in fase di costruzione al 25% con un fortissimo finanziamento europeo di 10 milioni di euro, quindi la mia amministrazione ha dovuto, immagini anche le polemiche delle varie forze politiche, chi diceva che il cantiere sarebbe rimasto abbandonato, che doveva essere concluso, che i lavori dovevano essere fermati, per cui noi abbiamo evitato un problema che è stato anche oggetto di ampie polemiche nella città, soprattutto dal punto di vista politico, almeno tra i cittadini che hanno visto la costruzione di questa realizzazione indubbiamente molto originale e che sta piacendo, quindi noi abbiamo tentato di fare un'operazione simpatia, non potendo farlo diversamente. Però scatta la polemica. Allora, questo è un teatro sul lago, quindi una posizione eccezionale e unica, e noi abbiamo pensato, prima della stagione autunnale, di fare degli eventi all'aperto nell'arena esterna che c'è, che si presta per appunto spettacoli di ogni genere. Abbiamo ingaggiato una direttrice artistica con un compenso tra l'altro anche molto modesto, un'alleanza con un teatro tradizionale che è il Corce di Novara, e Renata Rapetti, appunto direttore artistico, ha trovato, in virtù della sua lunga esperienza, ha pensato a Francesco De Gregori. La città ha reagito in maniera molto positiva, felice e contenta. Insomma, sì, tutto sommato. Ecco, che qualcuno non ha gradito. È l'ex sindaco che ha scritto qualcosa sui social, forse sulla sua pagina Facebook, e ha picchiato durissimo, no? No, l'ha mandato ai giornali, una lettera, una cattiva azione si potrebbe dire, di chi ha fallito come sindaco, e quindi oggi spera che fallisca anche l'esordio del teatro, a posto di esserne contento. Ha picchiato giù duro. Però alla fine è successo. Quant'era questo cachet di De Gregori? Quanto voleva De Gregori? No, è stato dato 35.000 euro, quindi più contenuto rispetto agli altri spettacoli. Quindi in virtù proprio degli ottimi rapporti, ma secondo lui era uno spettacolo vecchio, secondo lui De Gregori non andava bene, dopodiché io non vorrei neanche citare l'artista perché dalle rassegne stampa evidentemente ha letto questa situazione, allora ha detto: beh, se non mi vogliono non vado. Io ho mandato una lettera dicendo: guardi che, ma perché davvero è così, la città l'aspetta con ansia, però non siamo più riusciti a recuperare. Non siete più riusciti a recuperare, perché non c'è più nessuna possibilità. No, non c'è più alcuna possibilità. Tra l'altro abbiamo già cambiato la data di inaugurazione, che sarà probabilmente l'11 giugno, e quindi siamo già nelle condizioni di poter avere un'alternativa non a quel livello lì, però comunque di altro tipo, sicuramente non chiamiamo un cantante. Ecco. Vabbè. Fosse mai un ascoltatore di Radio 24, Francesco De Gregori, glielo diciamo, li richiami che a Verbania la vogliono. Veniamo ad una vicenda un po' più seria, è una vicenda della quale ci eravamo occupati, era una vicenda che traeva origine nell'ospedale di Vicenza. Che cosa era successo e che cosa avevamo raccontato dell'ospedale di Vicenza? Che era scattata questa indagine su una serie di infermieri e di medici perché sospettati di aver messo su una gara, scambiandosi poi le indicazioni su WhatsApp, e forse lo ricorderete perché appunto ce ne siamo occupati un paio di settimane fa circa, per chi infilava la cannula più grossa nelle vene del paziente, scambiandosi messaggi su WhatsApp e dicendo: io oggi ho messo quella arancione, io oggi ho messo quella grigia, dai, sono due arancioni, dai, è una grigia, eccetera eccetera. Ce ne eravamo occupati perché la vicenda si era conclusa di fatto solamente con delle censure, non c'erano state conseguenze di altro tipo. Avevamo intervistato il primario, del quale forse possiamo farvi sentire un passaggio dell'intervista che abbiamo realizzato. Via. Questa gara, che per fortuna è rimasta solo sulle chat e di certo non si è compiuta e non ha, se perciò non ha provocato, almeno così da come i soggetti interessati coinvolti, alcuna situazione di danno a pazienti, assolutamente. Così il primario Vincenzo Riboni, che però a verbale metteva quanto era stato pianificato, si è concretizzato il giorno 3 dicembre 2015. Adesso però il primario è stato denunciato. Abbiamo con noi l'avvocato Lino Roetta, che difende gli infermieri. Buongiorno, avvocato. Buongiorno a voi. Eccoci qua. L'avete denunciato per falso in atto pubblico, il primario? Sì, perché il primario ha scritto nel suo rapporto, che poi ha inoltrato per l'avvio dell'azione disciplinare di cui davate conto, delle cose assolutamente non conformi a quanto detto, facendo ammettere a infermieri e medici comportamenti dagli stessi assolutamente negati e respinti. Mm. Cioè, mi scusi, ma loro hanno ammesso o no? Questa cosa non l'ho capita. No. Però lui nel verbale hanno spiegato. Prego. Da subito, a fronte delle contestazioni del primario, hanno subito spiegato come si trattasse di una prosecuzione di una gag che era nata la sera prima a cena, che non aveva nessun dato reale. La prova indiretta è che a questa chat partecipavano infermieri e medici che erano in ferie o assenti per riposo per malattia, che anche loro contribuivano a questa fantomatica gara. Invece il dottor Riboni, nell'informativa che fa all'ufficio, dice che questi avevano ammesso di aver messo in pratica quello che la sera prima avevano preordinato, per cui mistificando la realtà dei fatti. E quindi sostanzialmente sostengono gli infermieri che non è successo. Adesso è stato denunciato per falso in atto pubblico. Sostengono gli infermieri, mi scusi. Sì. Le analisi, gli accertamenti fatti dall'unità, dall'US numero 6 di Vicenza, hanno fatto una cosa molto semplice: hanno controllato se in base agli accessi al pronto soccorso poteva avere una verosimiglianza questi puntesi e hanno verificato che negli orari contestati dalla chat non c'erano stati interventi del tipo descritti, per cui hanno avuto la prova. Mi spiega in 30 secondi, Roetta, perché facevano questa cosa qua? Perché lei capisce che non la facevano, perché ne scrivevano? Perché su WhatsApp si scambiano messaggi dicendo chi mette la cannula più grossa? Perché era una goliardata nata la sera prima a cena, un medico che aveva fatto esperienza all'estero, in cui diceva all'estero, a differenza che in Italia, determinati interventi non sono compito degli infermieri ma del medico. In Italia invece li fanno gli infermieri, che hanno un livello di preparazione nettamente superiore alla media europea. E gli infermieri replicavano dicendo: sì, cosa vuoi essere in grado tu di fare, che ne farai uno ogni tanto. E da lì è partita questa sorta di gioco che coinvolgeva, ripeto, persone che nemmeno erano in servizio. Allora, io la ringrazio, grazie all'avvocato Lino Roetta. Abbiamo ritenuto opportuno dar voce, come dire, all'altra parte, visto che abbiamo sentito il primario nelle settimane scorse. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati. Tra l'altro è una giornata difficile ancora una volta e soprattutto per i bancari. Nella seconda parte della trasmissione torniamo su un tema che stiamo affrontando periodicamente in questi giorni e restando sul territorio, che è quello di come viene effettuata l'accoglienza degli immigrati e dei tanti problemi che genera, dei tanti dubbi che genera su come viene organizzata, come viene gestita dalle prefetture e dai comuni. E oggi andremo a Como. Pausa. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: la Consob interviene sulle quattro banche fallite difendendo l'operato della vigilanza. Quando si perde la partita non è sempre colpa dell'arbitro. 13 arresti e 7 sanzionati a Foggia tra i dipendenti del comune a turni, timbrava uno per tutti. Nuovo interrogatorio per il sindaco di Lodi, Uggetti, è durato 2 ore a San Vittore. Contro la riforma della prescrizione annunciano sciopero gli avvocati penalisti. Dalla Grecia via libera alla nuova ondata di austerità oggi pomeriggio. L'Eurogruppo, la borsa. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, come si diceva, cronache da come funziona l'accoglienza di immigrati e rifugiati o richiedenti asilo in questo paese. Oggi andiamo a Como. 9 milioni l'anno, tanto vale l'accoglienza dei profughi a Como e provincia, una torta che fa gola a molti e che è spartita al momento fra due realtà. 5 milioni vanno all'associazione Il Focolare di Giovanni Mazzoleni, che ha avuto in gestione la cura di 445 richiedenti asilo per affidamento diretto. Altri 4 milioni vanno invece alla cooperativa Intesa Sociale di Luigi Capiaghi, che in alcuni casi li stipa in appartamenti fatiscenti. Siamo in 13 in questa casa di 100 metri quadri con un solo bagno. Io mi chiamo Badi, arrivo dalla Somalia, vivo qui da 10 mesi. Gli educatori della cooperativa vengono? Sì, viene una persona una volta al giorno a vedere come stiamo, ci porta la spesa, ci facciamo da mangiare da soli. L'ospitalità può diventare un business, basta fare due conti. Lo Stato, attraverso la prefettura, affida alla cooperativa 34 euro a migrante. Solo per questo appartamento, quindi, alla cooperativa vanno al mese 13.200 euro. Dove finiscono? Nessuno lo sa, perché le associazioni non hanno l'obbligo di dirlo. Secondo il parroco di Rebbio, Don Giusto della Valle, l'accoglienza rischia così di diventare un business. È una convenzione impostata in termini di urgenza, di tipo emergenziale. Gli permette di fare i soldi ai furbi, a coloro che gestiscono grosse cooperative. L'assessore ai servizi sociali, Bruno Magatti, se ne lava le mani. Questo sistema è un sistema molto complesso nel quale girano moltissimi soldi. La verifica e il controllo dell'utilizzo delle risorse compete alla prefettura, evidentemente. Nell'appartamento ci sono anche dei minori, anche se questo è illegale. My name is Ismael. 16 years from Gambia. Il mio nome è Ismael, ho 16 anni, vengo dal Gambia. Qui non facciamo niente tutto il giorno. Guardiamo la TV, dormiamo, mangiamo, non facciamo nulla. Per avere i documenti, questi ragazzi aspettano anche un anno e mezzo. Nessuno ha fretta, né loro né le associazioni. Ogni giorno in più, infatti, sono 34 euro a migrante. E sem partì, per questa America che mai ha tuc. Un grattacielo, una riultela, se la fortuna la me basera. E sem partì, Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso c'è Mario Platero, poi ci risentiamo alla fine per i saluti e poi alle 13.45 i saluti finali appunto e poi autotrasporti.